com'è? Ciao Francesco, come andiamo? Ormai sono un paio di mesi che non ci vediamo. Non ci raccontiamo tutte le nostre avventure. Non ci confidiamo tutte le nostre paure. Ci siamo persi, ma dove siamo andati? Così tanto vicini, non ci siamo più telefonati. Vicini di casa e nemmeno una visita. Lontani anni luce, come dice una legge fisica. Eppure siamo sempre amici, nulla è cambiato. Nonostante un piccolo legame si sia un po' scordato, ricordo ancora ogni cosa del nostro passato. Come la montagna che insieme abbiamo scalato. Siamo arrivati ad oggi ed ora continuiamo. La spugna non si getta, ma ogni tanto la strizziamo. Alleggeriamo il peso di una vita stressante, che tutti chiamano puttana, ma io dico amante. Com'è? Com'è? Ogni giorno stessa domanda, sappiamo già cosa rispondere a chi ce la manda. Noi ok, tranquillo, andiamo avanti, sorridendo alla vita ma stringendo i denti. Al confronto siamo tutti ottimisti, però poi da soli preghiamo al Corpus Christi. Ci affidiamo a Dio sperando che possa risolvere i nostri problemi e bloccarli sul nascere. Ma Dio chi è e che cosa fa di preciso? Ci lascia liberi e siamo noi ad infangare il suo sorriso. La libertà per l'uomo è il limite più grande, e quando ci siamo davanti bagniamo le nostre mutande. In fondo la verità è la verità, la gente è bigotta e ogni sua idea buona viene corrotta. Il buono si perde quasi sempre per strada, e più si prosegue e meno uno ci bada. La maggior parte di noi si lamenta del futile, senza pensare ad ogni cosa di realmente utile. Si spendono vite per rincorrere interrogativi, cercando di svelare dubbi primitivi. Ma ormai la sveglia segna le 2 del mattino, ci ripenserò domani dopo un sonnellino. E allora com'è? Dimmi tu come deve andare. Sto immerso nei problemi e non riesco più ad invitare tutti, tutto chi ha bisogno di aiuto, perché lo capisco anche se poi mi sto muto. Non guardare chi ti chiede aiuto con uno sguardo, alzati in piedi e non fare più il codardo. Ehi, non bisogna essere ricambiati per aver dato una mano. Conta il gesto che andrà molto più lontano. Ricordati le parole. Ehi, com'è? Come deve andare? Com'è? Sì, sì, sì, sì, sì, sì.